una mondena a cavallo di un asino. Un giorno arrivo a New York, non parlava inglese, la signorina nemmeno un po'. Lei che aveva vissuto in campagna, sulle sponde del Po, tra le galline e il canto del gallo, cocorico, cocorico. Tra le galline e il canto del gallo, chirichichi, chirichichi. Cantava nel parco centrale, ma suona meglio Central Park. Cantava le canzoni del suo paese, che sua nonna gli insegnò. Cantava per un pubblico svedese, sembrava Marilyn Monroe. Quando cantava un pezzo d'Italia, si trasformava in Pierrot. Quando cantava un pezzo d'Italia, si trasformava in Pierrot. On the road con la chitarra, I love you baby, mia bella stella. Che la strada ti sia sempre sorella, che la fortuna ti sia sempre gemella. On the road con la chitarra, I love you baby, mia bella stella. Che la strada ti sia sempre sorella, che la fortuna ti sia sempre gemella, che la fortuna ti sia sempre gemella. A forza di suonare accordi, si ritrovò in uno studio di Brooklyn a registrare l'anima del cuore, a farla cantare. Aveva voce da fare brillare tutta l'alba boreale, e così uscì come un fiore del mare, tutta la sua parte migliore, e così uscì come un fiore del mare, tutta la sua parte migliore. Teatri, concerti su concerti, si succedevano come l'acqua sotto i ponti. La gloria e il successo della mondina, quanta strada hai fatto bambina. Tu che giocavi a nascondino con le stelle, tu che agli uccelli regalavi perle. Malgrado tutto ti manca ancora qualcosa, forse una casa, forse una scusa. Malgrado tutto ti manca ancora qualcosa, forse una casa, forse una scusa. On the road con la chitarra, I love you baby, mia bella stella. Che la strada ti sia sempre sorella, che la fortuna ti sia sempre gemella. On the road con la chitarra, I love you baby, mia bella stella. Che la strada ti sia sempre sorella, che la fortuna ti sia sempre gemella. Che la fortuna ti sia sempre gemella. E punto in bianco sentì il gallo cantare e si svegliò con un colpo al cuore. Si accorse che non era partita, non si era persa neanche una puntata di un sogno bello da ricordare, di un sogno tutto da spolverare. E da quel giorno canta con più passione per le galline, per chi accanto la vuole. E da quel giorno canta con più passione per le galline, per chi accanto la vuole. La storia racconta che Mondina oggi suona la chitarra in cucina ed è felice senza scuse né pretesti. Mondina bella oggi è piena di successi. Uno fra tutti quando canta spacca il cuore a chi ha la fortuna di poterla ascoltare. Ogni notte la vengono a trovare Pierrot e tutte le lune del mare. Ogni notte la vengono a trovare Pierrot e tutte le lune del mare. On the road con la chitarra,